Cari amiche e cari amici, Radio Alma, Brussellando, Maridì ai microfoni questa sera e sono veramente contenta di essere nuovamente qui con voi dopo 2 giorni in Lussemburgo sotto la neve, perché il freddo è arrivato un po' dappertutto, veramente in pochissimo tempo, quindi pensate, uno si addormenta normalmente e al mattino si ritrova veramente coperto, e non scherzo, dalla neve. Saluto Dani M in regia. Buonasera a tutti e buona neve a tutti! Eh sì, a Bruxelles c'è un po' meno neve, ma vi posso assicurare che da una mia ora in giù il Belgio e il Lussemburgo sono un unico manto bianco, il che effettivamente ci riporta poi a questa atmosfera natalizia, perché oggi è il 4 dicembre, siamo quindi già in quella che è la prima settimana dell'Avvento, qui festeggeremo proprio dopodomani San Nicolà, che è ricordato e amato da più piccoli, e proprio in questa occasione il nostro Georges Laurent ha pensato ad una chicca straordinaria. Giorgetto ci raggiungerà solo a fine trasmissione, però vi posso assicurare, aspettateci, ne vale la pena, perché quello che stasera ha preparato è veramente sublime. Ah, mi fa piacere immaginare George tramutato in San Nicolà. In effetti, se ci metti la barba, se ci metti un cappottone, sembra proprio San Nicolà, vero? Probabilmente sì, poi magari sarà lui a confermarci quanto e se si sente San Nicolà. Rispetto alla settimana scorsa, vi ricordate, è stata una settimana davvero ricca, ricca di eventi, ricca che non sapevamo più nemmeno effettivamente il nostro blog, insomma, per quanti l'hanno visitato, e vi ringrazio perché sono tantissimi coloro i quali in questi ultimi giorni, in particolare da quando la nuova stagione di Brussellando è aumentata, che ci segue quotidianamente, quindi veramente tantissime volte grazie. Sì, Maridì, il nostro blog, lo ricordiamo, radioalma.eu/brussellando, è letteralmente esploso e abbiamo avuto addirittura in un giorno più di 60 visite, e voglio ricordare che abbiamo sponsorizzato e pubblicizzato eventi quali il concerto di Aldi Meola e altri eventi che si svolgono al Bosar, che non capitano tutti i giorni a Bruxelles. Hai proprio ragione, e partirei magari anche con qualche evento dell'agenda culturale. Innanzitutto vi ricordo la Framboise Frivol, di cui è protagonista Peter Hens, già da giovedì scorso e fino al 5 gennaio, perché ne vale la pena. Peter è un artista straordinario, e in questa pièce teatrale unisce sia elementi di comicità che elementi di tecnologia veramente particolarissime, tant'è che c'è un iPod che si muove sulla scena, e non posso svelarvi altro, perché vi invito semplicemente a partecipare alla pièce di Peter Hens, e ringrazio anche l'agenzia Sinna, la quale ci invia ormai da vario tempo eventi di un certo spessore culturale. E poiché siamo proprio in clima natalizio, voglio ricordarvi un evento che a me è effettivamente molto caro, perché ogni volta che inizia questo evento penso che il Natale è veramente arrivato, che è Plaisir d'Hiver. Plaisir d'Hiver è questa manifestazione che coinvolge un po' tutto il centro della città, che è veramente addobbato al Natale. Ci sono tanti espositori che vengono da più parti del mondo, non solo dal Belgio, e che propongono quelle che sono le loro gastronomie più importanti, oppure prodotti locali, artigianato, insomma c'è una varietà straordinaria di prodotti, e tutto questo caratterizza proprio il centro della città intorno alla Grand Place. Voglio ricordarvi anche che è stato allestito il presepe nuovamente alla Grand Place, che ci sono anche le luci intorno a questa nostra straordinaria piazza, e che c'è anche una patinoire, insomma una pista di pattinaggio che è stata costruita ad hoc per i più piccoli sicuramente, ma anche per i più grandi, e un po' dappertutto proprio in questi giorni che precedono, come si dice qui, la San Nicolà, ormai un po' dappertutto in tutti i comuni si possono ritrovare addobbi variegati che adornano adornano la città. Ora diamo avvio quindi a questa trasmissione, che effettivamente è davvero ricchissima. Ho avuto il piacere di intervistare Lapo Pistelli. Lapo è veramente, si è dimostrato essere straordinario, ha recentemente scritto un saggio sulla nuova primavera araba, che si è rivelato poi, malgrado tutto, effettivamente di una scottante attualità. Sappiamo tra l'altro proprio di questi giorni la notizia che lo Stato della Palestina è stato riconosciuto come Stato osservatore anche alle Nazioni Unite.

che è veramente uno dei classici di quelli di centinaia di pagine, che è un piacere anche sedersi a leggerli, ma richiede anche un po' di dedicazione. Veramente possiamo, secondo me, anche misurare il cambiamento, nello stile di raccontare che abbiamo vissuto. Cioè, i romanzi moderni non ci mettono mai quel livello di dettaglio, non ci mettono mai tutte quelle spiegazioni che oggi noi riguarderemo quasi secondarie alla storia. Cioè, per esempio, lo scrittore in questo libro descrive in dettaglio la storia della famiglia Gaunt prima di cominciare a raccontare che cosa ha a che fare con questa famiglia la eroina Becky Sharp. Ma anche, per esempio, descrive tutti i dettagli di come funziona la corte di Pumpernickel, la corte principale, una delle corti principali della Germania, prima di andare a raccontare come la sorte degli eroi si sta evolvendo su questo posto. Comunque, magari tanti di voi conoscono la storia. Si tratta di Becky Sharp, che è una ragazza povera. Di origini umili, cioè la sua madre era una cantatrice dell'opera, suo padre invece un pittore povero, impoverito, e che viene proiettata in una scuola dove incontra Amelia Sedley, che è l'altra eroina della storia. Fanno la stessa scuola, ma loro due sono completamente diverse. Cioè, da un lato Becky Sharp è una ragazza molto intelligente, ma è forzata anche dalle circostanze di essere una persona molto arrivista, il che naturalmente non giustifica tutte le azioni molto perfide che lei compie durante tutto il decorso del libro, ma che comunque è una virtù di Thackeray di far mostrare quanto le circostanze pesano su questa ragazza. Cioè, presenta il fatto che molto spesso lo menziona, che se Becky Sharp fosse nata in opulenza o se Becky Sharp avesse avuto la possibilità di, diciamo, ottenere un'agiatezza nella vita, probabilmente sarebbe diventata una persona molto virtuosa, anche se non sarebbe mai diventata una estremamente affettuosa. Amelia Sedley è proprio l'altro polo, cioè lei è molto dolce, molto ingenua anche, e nella sua ingenuità è anche un po' sciocchina, se possiamo dirlo così, perché spesso crede a cose o spesso agisce in base a dei precetti che non sono sempre giuste. Comunque, la storia si evolve attraverso, cioè, attorno a queste due donne, attraverso i loro mariti, la loro sorte, la loro povertà, i loro momenti di gloria. E Thackeray presenta proprio in dettaglio, nel frattempo, la fiera delle vanità. Cioè, la fiera delle vanità, essendo questa società che soprattutto dà attenzione alla conseguenza, alla nobiltà, all'importanza nella società, ai soldi, e fondamentalmente ignora tutto ciò che ha un valore proprio più umano, più affettivo. E in effetti vediamo come Amelia Sedley, nella sua povertà, è completamente ignorata da tutti i suoi amici di prima, e vediamo come questa società comincia a notarla immediatamente quando la sua sorte diventa un po' più leggera, che lei diventa più agiata. E vediamo anche come Becky Sharp riesce a manipolare questa fiera della vanità, conoscendola molto bene. E in un certo senso la storia che ci presenta William Makepeace Thackeray, da questo punto di vista, ha due strati. C'è lo strato, la vita mondana, quella rappresentata dalla Vanity Fair, e anche questa vita rappresentata da poche persone, questa vita interiore che non fa parte più della Vanity Fair, ma è piuttosto l'umanità vera. dei sentimenti veri, della cordialità vera. Quindi questo libro comunque vale la pena leggerla anche oggi, ha la sua validità, probabilmente anche oggi, anche se non negli stessi termini, e ci possiamo ben immaginare che al momento in cui è apparsa, nell'età vittoriana, era sicuramente troppo sincera su come la società funzionava. Anche oggi possiamo sicuramente divertirci con la ironia con cui lo scrittore descrive gli avvenimenti e l'ironia con cui guarda la fiera dalle vanità. Quindi per le lunghe notti fredde che sono a venire, vi raccomandiamo caldamente di rileggere qualche classico, fra quelli La fiera delle vanità di William Makepeace Thackeray. Come nella vera tradizione anglosassone, e qui siamo nuovamente all'agenda di Bruxellando, Marca propone per il secondo anno consecutivo uno spettacolo di Natale che è effettivamente poco comune qui a Bruxelles. Accompagnato dalla sua banda, la Blue Orchestra, Marca rivisita quelli che sono i grandi classici di Natale, da John Lennon a Mariah Carey, che sono effettivamente pezzi ormai diventati incontornabili per quello che è il periodo natalizio. Marca sarà non solo a Bruxelles, ma sarà un po' dappertutto in Belgio e esibirà canzoni come White Christmas, Santa Claus is Coming to Town, Have Yourself a Merry Little Christmas, Winter Wonderful, Happy Christmas, All I Want for Christmas Is You. E praticamente ci sarà la possibilità di vederlo il prossimo 7 dicembre, quindi venerdì, presso Saint-Ville, quindi in Vallonia, poi presso Dongelberg, sempre in Vallonia, a Boisfort, finalmente a Bruxelles, alle Spas del Vaux il 14 dicembre, e poi a Soigny il 15 dicembre, e conclude a Vervi il 21 dicembre. Per quanti volessero saperne di più, vi invito a visitare il nostro blog radioalma.eu/bruxellando. E ora, finalmente, come vi avevo detto, cedo la parola a George, veramente emozionato, ecco perché è stato un po' silente, perché ha bisogno di tanta voce. George, la parola è a te. Il commendator Manbritti è il padrone di una fabbrica di accessori per cavatappi a Carpi, in provincia di Modena. Egli possiede 30 automobili e 30 capelli. «Quante automobili!» dice la gente. «Che pochi capelli!» sospira il commendator Manbritti. «Ma non si sa perché. In fin dei conti, 30 è uguale a 30, no?» Per andare in fabbrica, il commendator Manbritti prende un'automobile lunga 12 metri, la più grande, la più lussuosa, la più gialla dell'intera regione Emilia-Romagna. Tutte le mattine, mentre guida, il commendator Manbritti domanda allo specchio retrovisore: «Specchio, specchio cortese, qual è l'automobile più bella del paese?» «La sua, commendator Manbritti», risponde lo specchio con voce da sassofono tenore. Soddisfatto della risposta, il più famoso produttore di accessori per cavatappi della Valle Padana pigia il pedale dell'acceleratore e la macchina scivola avanti come una regina della strada. Una mattina di lunedì, come sempre, il commendator Manbritti strizza l'occhio e domanda allo specchio retrovisore: «Specchio, specchio cortese, qual è l'automobile più bella del paese?» E già, si prepara ad assaporare la risposta come un cioccolatino al whisky scozzese con 12 anni di vecchiamento, quando lo specchio risponde con voce da bastuba: «È quella del ragionier Giovanni.» «Mannaggia!» dice il commendator Manbritti pigiando il pedale del freno. È una parola che ha imparato al cinema. «Ma non è possibile!» egli grida. «Che ti venga la congiuntivite! Il ragionier Giovanni è un morto di fame, ha solo una bicicletta e senza la pompa.» Ma lo specchio, più volte interrogato, ribadisce con fermezza: «Ma sotto la minaccia di essere fatto a pezzi, venduto come schiavo, ricoperto di carta velina, non muta la sua sentenza.» Il commendator Manbritti scoppia in pianto e un vigile gli appioppa una contravvenzione perché blocca il traffico. Paga, riparte e corre in fabbrica. Nel suo ufficio il ragionier Giovanni sta ripassando sul suo violino il concerto di Max Bruch. Il ragionier Giovanni è un ometto secco, con i capelli bianchi. Li aveva già bianchi fin da bambino, tanto che i suoi compagni lo avevano soprannominato Biancaneve. In ditta fa di tutto. luce dagli accessori per cavatappi, serve da tavolino al principale quando gira per la fabbrica deve prendere appunti e li prende sulla schiena del ragionier Giovanni. E fa il commento musicale. Il commendator Manbretti non vuole essere da meno dei personaggi dei teleromanzi, che non parlano se non c'è il commento musicale. Anche quando fuggono nella notte, hanno sempre dietro un'intera orchestra. Magari sarà su un camion, che gli suona delle tremende sinfonie. Nell'ufficio c'è un paravento. Quando viene un cliente a trattare un affare, il ragionier Giovanni va dietro il paravento con il suo violino. Dalla voce del principale capisce se deve suonare un adagio, un andantino o un presto molto. «Buongiorno, commendatore», dice il ragionier Giovanni, staccando l'archetto dalle corde. Il commendatore lo guarda a lungo, con uno sguardo pessimistico. E quando parla lo faccio con voce così triste che il ragionier Giovanni si sente in dovere di attaccare il tema della morte di Isotta. Non ci siamo, ragionier Giovanni», dice il commendatore. «E lasci stare, Wagner. Tutte queste novità, queste automobili. L'hai già saputo? Oh, sono cose che si sanno. La gente mormora. Ma non c'è niente di male. È morta mia zia Giuditta, mi ha lasciato qualche ducato, così mi sono deciso a comprare quella macchinetta. Oh, macchinetta, eh? Vadi, vadi. Ma cosa dice, commendatore? Guardi con i suoi occhi personali. Là in un angolo del cortile si nota con qualche sforzo una minuscola automobile rossa a tre ruote, non più alta di uno sgabello. Pare un'automobile rimasta bambina per mancanza di vitamine. E quella lì sarebbe l'automobile più bella del paese, riflette il commendatore Manbretti sorridendo con un solo dente. Si vede che il mio specchio è diventato scemo dalla nascita. Che gli venga l'orticaria. Intanto si vedono degli operai che attraversano il cortile per il loro lavoro e tutti si fermano a guardare l'automobile del ragionier Giovanni. Uno le fa una carezza, un altro le spolvora un parafango col fazzoletto, un terzo è così distratto che si accende due sigarette in una volta. E nessuno sembra accorgersi che proprio quella mattina l'automobile del commendator Manbretti ha un'antenna nuova per la radio, tutta di lapislazzuli, e un quadro nuovo di Annigoni nel settore artistico. Sovversivi, borbotta il padrone, basta che vedano del rosso. Più tardi, nel tornare a casa, il commendator Manbretti domanda per l'ultima volta allo specchio retrovisore: dimmi, ma non mentir. Qual è l'automobile più bella del paese? È quella del ragionier Giovanni. Ma perché? È quella del ragionier Giovanni. Ma se non ha nemmeno l'impianto per la doccia calda e fredda, il samovar e il registratore a cassetta. È quella del ragionier Giovanni. Cioè ti venga un giradito, esclama il commendator Manbretti. Lo specchio tace dignitosamente, rispecchiando di passaggio un autotreno col rimorchio pieno di maiali diretto a un salumificio di Reggio Emilia. Quella sera stessa il commendator Manbretti decide di andare al cinema per dimenticare i dispiaceri. Davanti al Cinestar trova le automobili in sosta, fitte come i pini nel pineto, le querce nel queceto e le ciliegie nel vaso delle ciliegie sottospirito. Mentre cerca un posto per parcheggiare la sua super macchina, egli scopre proprio lì, a 2 metri dal suo paraurti anteriore, il macinino, il mini sgorbio, il micro scarabocchio del ragionier Giovanni. La piazza è deserta. I carpigiani stanno tutti al cinema, a casa a guardare la televisione e al caffè a giocare a ramino. Non circola anima viva. Non ci sono posteggiatori abusivi in vista e la luna è assente giustificata. Adesso o mai più, decide il commendator Manbretti. Basta un colpetto all'acceleratore, il muso possente della supercilindrata balza sulla macchinetta rossa, che del resto, essendo notte, sembra nera. La schiaccia come una fisarmonica. Freno, marcia indietro, prima e seconda. Via, a tutto gas. Nessuno ha visto niente. nemmeno lo specchio retrovisore, perché guardava dall'altra parte e in pratica faceva il paro. All'uscita dal cinema, il ragionier Giovanni vede la sua macchina ridotta a una via di mezzo tra un colabrodo e una pizza alla napoletana e sviene. Molti carpigiani lo assistono amorevolmente, gli danno piccole sberle, gli fanno dorare sali e tabacchi per farlo rinvenire. «Povero me», sospira il ragionier Giovanni. «Addio del passato, bei sogni ridenti!» «Su via, non se la prenda!» dice la gente. «Ci penserà sette mani!» «Chi?» «Ma il carrozziere, no? Quello che chiamano sette mani, da tanto che è bravo! Che pare che abbia davvero sette mani al posto di due!» «Ah! Sette mani!» «Che mi chiama?» domanda un omone che esce dal cinema per ultimo. «Si parlava giusto di lei, signor Malagodi, detto sette mani. Guardi che carneficina!» Ho visto di peggio. Ci penso a me. Posso prenderla, ragionier Giovanni?» «Sì, grazie tante.» Con una sola mano, sette mani solleva il cartoccio, se lo fica sotto il braccio e si avvia verso l'officina tra due ali di popolo. Quella notte, il ragionier Giovanni dorme sul pavimento dell'officina, abbracciato ai rottami della sua mini. La mattina dopo, sette mani si mette al lavoro e il ragionier Giovanni non va neanche in fabbrica per starlo a guardare sospirosamente. Il commendator Manbretti ha un incontro d'affari con un affarista di Stoccolma. Sente molto la mancanza del commento musicale, ma fa finta di niente. Dopo pranzo manda una spia a spiare quel che succede nell'officina di sette mani. La spia torna quasi subito. «E allora?» «E quel sette mani è proprio un fenomeno, commendatore. La macchina è tornata come nuova. Sette mani la sta verniciando e ragionier Giovanni gli fa il commento col violino.» Il commendator Manbretti picchia un pugno sul tavolo che lo spacca, con le difficoltà che ci sono oggi a trovare un buon falegname. Poi manda la spia in un altro posto. Bisogna sapere che il commendator Manbretti è il capo segreto di una banda di ladri di automobili. Ai suoi ordini la banda si mette in movimento. Prima passa dall'officina un tale a chiamare sette mani. «Ha detto sua moglie di andare a casa perché le hanno rubato il borotalco.» «Ancora!» sbotta sette mani. «È già la volta, terza volta in una settimana. Beh, vado subito a vedere. Lei, ragionier Giovanni, mi aspetti qui.» Sette mani corre a casa. Allora passa dall'officina un altro tale e offre al ragionier Giovanni un gelato alla panna. Il ragionier Giovanni lo accetta come un segno di solidarietà per le sue disgrazie. Ma nel gelato c'è un sonnifero e appena il ragionier Giovanni si addormenta arriva la banda e fa sparire la macchina. Arriva anche sette mani, tutto contento perché la cosa del furto del borotalco non era vera, e vede il ragionier Giovanni che dorme. Non vede più la macchina che è sparita, capisce ogni cosa e si mette a piangere. Perché? E non può mica mandare la fattura ai ladri. E subito dopo arriva il postino. «Telegramma per il ragionier Giovanni. Poveraccio, gli hanno appena rubato la macchina. Adesso anche un telegramma. Io non lo sveglio. Anch'io vorrei dormire così.» Finisce che a svegliare il ragionier Giovanni ci pensa il postino. Il telegramma dice: «Morta zia Pasqualina, vieni prendere eredità.» «Meno male», dice sette mani. «Magari con l'eredità si compra una macchina con quattro ruote.» Il giorno dopo, mentre va in fabbrica, il commendatore Manbretti domanda malignamente allo specchio retrovisore: «Specchio, specchio cortese, qual è adesso l'automobile più bella del paese?» E lo specchio, con voce da balalaica: «Ecco in grande ragionier Giovanni.» Il commendatore Manbretti, per lo sbalordimento, passa con rosso e prende la multa. Corre in fabbrica, manda a chiamare il ragionier Giovanni, lo vede tutto allegro, pronto a suonare il moto perpetuo di Paganini. «Non ci siamo, ragionier Giovanni. Tutte queste novità, queste automobili.» «Ma qui è un'automobile, commendatore. Guardi lei stesso con i suoi occhi personali.» Il commendatore Manbretti guarda dalla finestra. In un angolo del cortile, circondato dall'ammirazione degli operai e delle impiegate, col muso tuffato in un sacchetto di avena, c'è un cavallo bianco che batte uno zoccolo per terra e fa come per dire: «Prendi in carta e porta a casa.» «Me l'ha lasciato mia zia Pasqualina, morendo sul letto di morte.» Ma chi me l'ha fatto fare, pensa il commendatore, di assumere un ragioniere con tante zie moribonde. Per fortuna sono il capo segreto di una banda di ladri di cavalli e prima di domani sarà sistemata anche l'eredità della zia Pasqualina. Ma lo specchio mi deve spiegare perché gli piace più questo brocco della mia automobile che di cavalli ne ha 27. Lo specchio, invece, non spiega proprio niente. Continua a ripetere che il cavallo del ragioniere Giovanni è la più bella automobile del paese e il commendator Manbretti ci si arrabbia tanto che si strappi i capelli. Così adesso gliene restano solo 28. Specchio del diavolo! Egli grida. Tu sei il più brutto giorno della mia vita, che ti vengono gli orecchioni! Quando gli rubano anche il cavallo bianco, il ragioniere Giovanni vuol diventare matto dal dolore, ma non ci riesce. Allora prende il violino e ci fa un commento musicale così bello, ma così bello che la gente viene fin da Sassuolo e da Voghera per sentirlo. Viene anche un maestro della Scala di Milano. Era ferma a far benzina sull'autostrada del Sole e sente quel violino. «Ma chi è che suona così bene anche meglio?» domanda il benzinaro. «È ragioniere Giovanni che fa il commento musicale. Voglio conoscerlo». Fa la sua conoscenza e gli dice «Lei è il più bravo violinista del mondo. Se viene con me la faccio diventare ricco a palate e anche di più». Il ragioniere Giovanni esita. Nonostante tutto, egli è affezionato alla ditta Manbretti e gli piacciono gli accessori per cavatappi. Però sente tanto la mancanza del cavallo che accetta la proposta. E va a Milano. Di mestiere, adesso, fa il più bravo violinista del mondo. Guadagna un sacco di rupie e finalmente può coronare il sogno segreto della sua vita. Comprare un tram da corsa. E quando va a Modena col suo tram da corsa, tutti corrono a battergli le mani. Escono anche le monache dai conventi e il commendator Manbretti si chiude in casa per non vedere, per non sentire, per non farsi venire la voglia di strapparsi un altro capello. Ed eccoci nuovamente alla fine di questa trasmissione. Effettivamente il tempo scorre via rapidamente, velocissimamente. Quindi saluto il nostro Dani M in regia. Buona serata a tutti. Ringrazio il nostro Giorgio e la nostra Fiordaliso che sono stati veramente straordinari. I minuti che Giorgio ci ha dedicato sono assolutamente splendidi e spero che tutti i bambini e gli adulti all'ascolto l'abbiano gradito. Io vi auguro un'ottima settimana, davvero una grande settimana con o senza la neve e questa volta vi lascio con un messaggio dalla parte di Dani M. Noi ringraziamo Mari D e soprattutto una settimana con e solo con Bruxellando.